Salva Danaio di Deborah Rosciani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio. Siamo in diretta a Milano, Università Bocconi, dal Salone del Risparmio. Dopo qualche settimana di avvicinamento, durante le quali abbiamo iniziato a trattare i temi del risparmio, dell'educazione finanziaria, temi che tutti dobbiamo, con i tempi che corrono, imparare sempre di più a masticare e a gestire, siamo giunti alla prima delle tre puntate speciali di Salva Danaio che condurremo qui in diretta dall'edizione 2012, come vi dicevo, del Salone del Risparmio, Università Bocconi, all'interno di quello che è senza dubbio il più importante evento italiano dedicato al tema, è organizzato da Assogestioni, che è l'organizzazione che riunisce le società di gestione del risparmio. L'obiettivo di queste giornate è coinvolgere gli operatori del settore insieme ad esperti ed istituzioni per osservare gli scenari e le prospettive dei mercati, scenari ancora piuttosto complessi, confrontandosi sui cambiamenti registrati negli ultimi anni e sugli sviluppi previsti per il futuro, e poi per aprire le porte anche al pubblico, come avverrà nella giornata di venerdì. La puntata di oggi è dedicata alla comprensione delle caratteristiche, delle peculiarità e delle novità, se ce ne sono, delle forme di previdenza complementare, fondi pensione aperti, chiusi, piani individuali di previdenza. Perché ne parliamo? Perché, come sapete, c'è stata un'importante nuova ennesima riforma delle pensioni, quella varata qualche mese fa dal ministro Fornero, però ci sono anche altre questioni da tenere in considerazione, le possibilità o impossibilità di risparmio delle famiglie che in un momento di crisi come questo trovano sempre più complesso risparmiare parte del loro reddito per creare una pensione integrativa, tema a cui tra l'altro è stato dedicato anche il convegno di apertura questa mattina del Salone del Risparmio. Il ministro Elsa Fornero era collegata in videoconferenza da Roma, perché come sapete questa mattina c'è anche un importante consiglio dei ministri. Noi oggi torniamo ad approfondire le questioni legate agli strumenti di previdenza integrativa, per tornare ad esaminare le domande, le perplessità, se ce ne sono, da parte degli ascoltatori e dei lavoratori. Perché sì ad una forma di previdenza complementare? Perché no, visto che i tassi di adesione, il presidente dell'INPS Mastrapasqua lo ricorda ad ogni iniziativa pubblica, i tassi di adesione continuano ad essere molto bassi, non superano il 24% della popolazione attiva, 23-24% forse le stime più recenti, l'ultima era quella del 22 per la verità, 22%. Con noi quest'oggi Maurizio Agazzi, direttore del fondo pensione Cometa, che è il fondo pensione dei metalmeccanici, il più grande fondo pensione italiano, e anche coordinatore del comitato tecnico di Asso Fondi Pensione. Dottor Agazzi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ci sente? Sì, siamo praticamente proprio nel bel mezzo del salone oggi, e quindi potrà capitare anche ai nostri ascoltatori di sentire in diretta le comunicazioni che inevitabilmente partono sempre quando parte la diretta della radio. Fino a questo momento non si è sentito nulla. Saluto e ringrazio anche, collegato invece da Roma con noi quest'oggi, il professor Francesco Vallacqua, docente dell'Università Bocconi e professore a contratto di economia e gestione delle assicurazioni vita e dei fondi pensione presso l'Università Bocconi, e anche di diritto dell'economia presso l'Università e Campus. Professor Vallacqua, buongiorno. Buongiorno, ci grazie per l'invito. Lo abbiamo interpellato quest'oggi anche perché in occasione del Salone presenterà il suo libro La previdenza complementare per i lavoratori pubblici e privati. Quindi abbiamo sicuramente gli interlocutori più autorevoli per fare il punto con i nostri ascoltatori sull'argomento. Ascoltatori che possono chiamarci come sempre all'800240024. Gli ascoltatori possono anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo anche su Facebook salvadanaio-radio24. Se volete andare a cliccare con un mi piace sul nostro profilo, andate a vedere anche quali sono gli altri argomenti di cui abbiamo parlato nei scorsi giorni. Rapidamente, prima di intavolare il nostro dibattito sul tema di questa mattina, che è sempre molto interessante ed è un tema che interessa sempre molto i nostri ascoltatori, vediamo invece quello che succede in borsa. Ieri listini del vecchio continente protagonisti di un rialzo molto vistoso, dovuto a tanti fattori. C'è stato un buon esito dell'asta di titoli di Stato ieri mattina spagnoli, tutti collocati ma con rendimento in crescita. È andata bene anche per l'asta di titoli greci, collocati ieri mattina con i rendimenti che sono tornati a scendere dopo un anno. Ma dopo il balzo di ieri, oggi subito i listini hanno ripreso a scendere, meno 2 punti per il FTSE MIB a Piazza Affari, che ieri ha guadagnato ben oltre il 3%, Parigi meno 1,18%, Francoforte perde oltre mezzo punto, Madrid, peggior piazza d'Europa, oggi in calo del 2,59%. Il mercato attende anche questo fine settimana la riunione del Fondo Monetario Internazionale per rifare un po' il punto della situazione macroeconomica mondiale, dopo che ieri l'FMI da Washington ha diramato le nuove stime di crescita internazionale, decretando per il nostro paese un 2012 con un PIL in contrazione dell'1,9%. Questa mattina la Germania ha collocato sul mercato titoli del tesoro a 2 anni per 4 miliardi e 200 milioni di euro al tasso dello 0,14%. Praticamente scava sottoterra la Germania sul fronte rendimenti dei Bund. Si tratta del rendimento più basso di sempre, una tendenza che sta continuando da tempo, ma pur con questi rendimenti, con questi tassi, la Germania continua ancora ad attrarre la platea internazionale degli investitori, che preferiscono la cassaforte tedesca piuttosto del rischio degli altri paesi, soprattutto dei periferici. L'euro sul dollaro è 1,3082, i migliori titoli di Piazza Affari rapidamente: Azimut più 0,7, Buzzi più 0,44, i peggiori: Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,84, ma ieri ha guadagnato l'11, Mediobanca meno 3,62, Fiat meno 3,54, Unicredit meno 3,40%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, la previdenza complementare, un tema molto importante. Maurizio Agazzi soprattutto lo ricorderà senz'altro, quante puntate abbiamo organizzato e dedicato a questo argomento nel 2007, nel primo semestre del 2007, quando i lavoratori avevano a disposizione il famoso semestre del silenzio assenso per decidere se far confluire il proprio trattamento di fine rapporto verso forme di previdenza complementare. Dottor Agazzi, le chiedo subito un commento. Oggi la pensione è oggetto del dibattito generale da tanti altri punti di vista, sicuramente la previdenza complementare non è per forza di cose la priorità dei lavoratori italiani, eppure dovrebbe esserlo. Voi come fondo pensione continuate ad andare nelle fabbriche, nelle aziende, o non ci sono più quelle campagne informative famose, appunto proprio quelle del 2007 che ricordavamo qualche minuto fa? Innanzitutto è chiaro che l'argomento riceve attenzione nel momento in cui è libero da altre preoccupazioni, purtroppo. Ci si muove spesso sempre solo con campagne e quindi è difficile poi mantenere costante l'attenzione a un argomento che, come ricordava giustamente lei, è strategico e ancor di più rispetto alle nuove situazioni che si presentano attraverso le riforme pensionistiche di primo pilastro. Si continua con facendo i conti però con la crisi, con la diminuita capacità di risparmio e purtroppo anche un finanziamento che apparentemente è meno oneroso perché è costituito in parte dal TFR e in parte dal contributo del datore di lavoro, rischia di essere sottoposto allo stress e alla crisi che i lavoratori e i cittadini italiani stanno vivendo. Dottor Agazzi, che trend di crescita ha avuto Cometa negli ultimi anni? Se ne ha avuti, c'è anche da dire che in questo momento purtroppo prevalgono le perdite di posti di lavoro e quindi, per la verità, magari risultano forse più lavoratori che devono cancellare la loro iscrizione al fondo pensione, oppure perdendo il posto di lavoro l'iscrizione si mantiene ma magari non si possono mantenere ed alimentare appunto i versamenti? Ma diciamo che laddove c'è un'emorragia naturale che è dovuta anche all'età delle adesioni e a chi fortunatamente lascia il posto di lavoro perché ha raggiunto i requisiti per la pensione, e questi rappresentano più del 50% delle uscite dal fondo pensione. C'è una parte ridotta di fuoriuscite per cambio di lavoro e quindi cambio contrattuale, il problema più grosso è chi perde il posto di lavoro in questo periodo e naturalmente difficilmente, non trovando un'immediata rioccupazione, può permettersi, pur permettendo lo statuto e la norma, di mantenere la propria posizione nel fondo pensione. Diciamo che sostanzialmente da 2 anni a questa parte risentiamo della crisi sia in termini di non crescita, salvo rari momenti di piccole riprese, e soprattutto di una decrescita, un turnover negativo di circa 10.000 aderenti all'anno. Quindi avevamo raggiunto i 450.000 e superato i 450.000 aderenti alla fine del semestre, siamo scesi a 435.000 aderenti. Allora, volevo chiedere un commento generale sullo stato dell'arte al professor Vallacqua, che oltre a conoscere bene l'argomento dal punto di vista accademico, è docente universitario, si occupa appunto a fondo di questo tema, è anche consigliere di amministrazione del Fondo Pensione Espero, che è il fondo di previdenza complementare dei lavoratori della scuola, tra l'altro uno degli ultimi nati nel nostro paese, è responsabile del Fondo Pensione Aperto Unicredit Previdenza ed è anche dei piani pensionistici individuale, Poste Previdenza Valore e Senior Vita Valore Futuro. Spero di aver detto tutto correttamente, ma io ho citato anche queste sue, professor Vallacqua, occupazioni per ricordare che oltre dal punto di vista accademico scava a fondo anche nel funzionamento dei singoli strumenti di previdenza complementare, quindi conosce il fondo chiuso, il fondo aperto e il piano individuale di previdenza. Relativamente alle difficoltà che i lavoratori hanno di iniziare un percorso di previdenza complementare o di mantenerlo, insomma, oggi qual è il suo osservatorio accademico? Che cosa ci racconta? Allora, accademicamente direi che ci si dovrebbe interrogare su soluzioni che aiutino sotto il profilo economico ad aderire, perché il problema non è tanto la volontà o la mancanza di conoscenza che può incidere, ma come dicevate anche voi prima, è l'assenza di risorse economiche. Faccio un esempio banale del tipo: chi ha un contratto a progetto, magari in un contesto in cui una modifica normativa prevedesse la possibilità di avere anche a lui il trattamento di fine rapporto, cosa che ad oggi la normativa italiana non è, perché è consentito solo ai lavoratori subordinati, forse questo potrebbe essere un piccolo barlume, diciamo, di spiraglio economico in più. Lato crisi, è inevitabile che quello che diceva il direttore generale di Cometa accada. È anche però da sottolineare l'importanza, secondo me, in questo contesto dei fondi pensione, che assumono una sorta di forma di ammortizzatore sociale. Secondo me questo è poco messo in evidenza, nel senso che in questo momento di crisi sapere che l'adesione a un fondo pensione mi consente comunque anche un riscatto, e quindi non è vera la classica affermazione che in maniera molto banale spesso si legge: se aderisci a un fondo pensione sei vincolato a vita, perché anche, diciamo, le frasi fatte banali alle volte incidono sullo sviluppo o meno di un settore. È molto importante, io direi che in questo momento i fondi pensione in alcuni casi sono una sorta di ammortizzatore sociale. Eccoci ritrovati in diretta, siamo in diretta dal Salone del Risparmio di Milano, dove però quest'oggi ci è capitato un imprevisto di natura tecnica. Abbiamo in ogni caso riorganizzato il nostro collegamento per condurre in porto la nostra trasmissione anche oggi, dedicata al tema della previdenza complementare. È stato il tema peraltro introduttivo e più importante del Salone del Risparmio, che ha inaugurato i suoi lavori questa mattina. Noi stiamo discutendo un po' delle prospettive degli strumenti di previdenza complementare, che non riescono a trovare grande consenso tra i lavoratori, complici naturalmente soprattutto le questioni legate alle difficoltà economiche delle famiglie, per cui anche se tutti siamo consapevoli del fatto che si vive più a lungo, che si va in pensione più tardi, che l'assegno pensionistico pubblico sarà sempre più magro, si ha necessità quindi di essere integrato, il tema è che non ci sono oggi le risorse per poter fare questa integrazione. Detto questo, però, non è detto che non ci si possa interrogare sul funzionamento di questi strumenti e sulle loro prospettive, raccogliere le vostre perplessità, che sono molte. In tanti ci state scrivendo e telefonando questa mattina all'800 24 00 24. Professor Francesco Vallacqua, docente alla Bocconi e anche all'Università e Campus, ha scritto La previdenza complementare per i lavoratori pubblici e privati. Brutalmente, prima l'abbiamo interrotta, mi sente adesso? Sì, la sento, non so fin dove si è sentita la mia risposta. Esattamente, no, allora abbiamo sentita fino al punto in cui ci ha raccontato che l'impatto della crisi è inevitabile sulle scelte di questo tipo da parte dei lavoratori, e era rimasto al punto in cui ci stava spiegando che magari molti lavoratori non hanno aderito alla previdenza complementare in passato perché si ritiene che queste posizioni siano vincolate per tutta la vita e non si conosce l'aspetto, per esempio, della questione che il TFR si può riscattare anche alla pari del trattamento di fine rapporto, che il fondo pensione si può riscattare come il TFR in tempi anticipati rispetto, diciamo, alla conclusione del piano di versamenti. Sì, che altro, diciamo, bisognerebbe evitare, come spesso si fa in Italia, delle battaglie di tipo ideologico, essere pro o essere contro, cioè l'idea poi è un po' quello da cui sono partito per il libro. Forse è meglio spiegare quali sono gli strumenti, come funzionano sotto un profilo, come dire, proprio pragmatico, e poi decidere se una cosa interessa o no. Facevo l'esempio del riscatto, ma anche delle anticipazioni, ad esempio. Una cosa che mi capita spesso di sentire quando magari mi capita di fare di andare in giro per l'Italia è: vabbè, però se lascio il mio TFR in azienda posso anticiparlo, se in pensione questa possibilità poi non ce l'ho più. Quindi, cosa che invece non è, perché esistono anche lì le modalità di anticipo per l'acquisto della prima casa piuttosto per le spese sanitarie. Cioè, l'approccio, secondo me, se ci vuole una nuova, come dire, campagna di cui si parla, divulgativo, di educazione, dovrebbe essere più orientata verso il basso, cioè verso cose un po' più comprensibili e operative, prima ancora di parlare di aspetti prettamente finanziari, perché poi lì ci si arriva dopo, ma prima bisogna capire se una cosa ha o non ha un fondamento e un collegamento con la vita quotidiana. Però anche l'aspetto finanziario, professor Vallardo, è importante, perché naturalmente i lavoratori che consapevolmente aderiscono ad uno strumento di previdenza integrativa vogliono avere delle ragionevoli proiezioni su quello che sarà il loro trattamento pensionistico integrativo a futuro. Poi ci arriviamo anche a questo aspetto. Io direi, se voi siete d'accordo, professor Vallacqua, questa mattina il nostro ospite insieme a Maurizio Agazzi, direttore del Fondo Pensione Cometa, che è il fondo pensione chiuso dei metalmeccanici, del più grande fondo pensione italiano, direi di farvi cominciare a sentire anche gli ascoltatori, che sono molti, ci sono anche facciamo una cosa, aspettatemi intanto, ecco, ho ripristinato anche il collegamento dal salone in maniera più decente rispetto a poco fa, perché avevo il telefono, probabilmente gli ascoltatori se ne saranno accorti. Adesso invece ho rimesso le cuffie, mi sono microfonata regolarmente e possiamo cominciare a sentire i nostri ascoltatori. Antonio da Potenza, io mi sto facendo una gran sudata questa mattina, anche voi da casa che state ascoltando un tema che magari, come dire, percepite con un po' di difficoltà. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Mi sente? Sì, sento lei. Sì, adesso benissimo, grazie. Ci racconti che cosa è successo nella sua azienda, perché questo era quello che ci voleva raccontare. In pratica ho aderito a un fondo pensione aperto, la mia è un'azienda con più di 50 dipendenti, e in pratica ho aderito a un fondo pensione aperto, anche se molti miei colleghi non hanno aderito al fondo chiuso. Io ho preferito, sul suggerimento dell'azienda, anche aderire a un fondo pensione aperto di una nota banca italiana. Però non mi è stata ancora versata nessuna quota dal 2007. Io volevo fare, all'interno di questo discorso, volevo fare due o tre brevissime domande. Uno, se il fatto che non mi versi dal 2007 prima o poi può andare in prescrizione e quindi io non ho facoltà di rivalermi. Due, se vengono rimborsati alla fine, quando io devo andare in pensione, vengono rimborsati anche con i dovuti interessi che questo fondo, per esempio partito a 10, fra qui a 25 anni può arrivare a 50, e se io mi posso, come dire, rivalere anche per quanto riguarda gli interessi maturati nel frattempo. E poi io ho un altro mio fondo pensione aperto per fatti miei, non c'entra con l'azienda, per usufruire non solo della bontà, voglio dire, di un giorno che io vado in pensione, di poter garantirmi delle somme, ma anche per poter, come dire, scaricarmelo dai redditi per utilizzare appunto il beneficio fiscale che questa sottoscrizione le dà. Antonio, mi interessa però molto la prima parte della sua testimonianza, quando un'azienda ti tradisce, perché qua insomma, mentre abbiamo molti lavoratori scoraggiati che non credono nello strumento fondo pensione o strumento di previdenza complementare di altro tipo, qui invece c'è stato un altro problema per Antonio, cioè le aziende che non hanno fatto i loro doveri. Peraltro stiamo parlando anche di un'azienda importante perché aveva più di 50 dipendenti, quindi neanche una PMI. Maurizio Agazzi, che cosa rispondiamo ad Antonio? Non ha parlato di Cometa, non ha parlato appunto del fondo pensione a cui quell'azienda aderiva. Mi chiedo se però anche nell'ambito metalmeccanico si siano verificate queste situazioni di aziende che magari anche per problematiche di liquidità non hanno potuto ottemperare all'impegno preso con il lavoratore. Sì, diciamo che il fenomeno dell'omissione contributiva è un fenomeno diffuso in tutte le forme di previdenza complementare. Naturalmente va detto che nei sistemi di previdenza complementare contrattuali ci sono maggiori controlli dovuti anche a una regolamentazione contrattuale che prevede tempistiche di versamento, modalità di versamento, procedure definite e in qualche caso, cito l'esempio di Cometa, anche obblighi da parte dell'azienda di tempestiva informazione nei confronti dei lavoratori, per esempio del bonifico effettuato piuttosto che dell'avvenuto abbinamento tra bonifico e distinta, che è il documento riepilogativo dei singoli contributi dei singoli aderenti. I fondi mettono a disposizione degli aderenti, soprattutto i fondi negoziali, degli strumenti che consentono con accesso a parti riservate del sito con password di verificare in tempo reale l'andamento della propria contribuzione, oltre che la comunicazione periodica che è obbligatoria da parte di tutte le forme pensionistiche a tutti gli aderenti una volta all'anno entro il 31 marzo con il riepilogo dei contributi versati e con la data di versamento e la data di abbinamento. In qualche caso è chiaro che il problema dell'omissione contributiva a volte dipende, come ricordava lei, da situazioni di crisi aziendali che sono riconosciute e conclamate. In quel caso nella strumentazione collettiva le parti sociali, il sindacato in primo luogo, può interloquire con l'azienda e verificare quali sono le condizioni di rientro. In altri casi, e soprattutto laddove c'è un'adesione individuale, quindi non legata a periodi ben definiti di versamento e tutto il resto, diventa più complicato andare a ricostruire l'effettivo versamento, soprattutto se si tratta semplicemente di trasferimento del TFR e non anche di contribuzione da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Certo. Mi sente adesso, Agazzi? Perché prima tentavo di interromperla, invece evidentemente non riusciva a sentirmi. Proprio perché no, volevo che si soffermasse sull'aspetto degli obblighi informativi che l'azienda ha quando promette al lavoratore che fa il versamento sia della quota di TFR maturato sia della parte a cui compete l'azienda se appunto accetta di dare il suo contributo allo strumento di previdenza complementare. Professor Vallacco, ha sentito questa esperienza che ci ha raccontato questo ascoltatore poco fa? Che fine fanno quei contributi che lui ritiene di aver versato? Perché tutto sommato comunque l'azienda se li è tenuti. Lui dice: a me servivano per costruirmi la previdenza integrativa del futuro, non si sa l'azienda dove li abbia buttati, ma per me ho cominciato a gettare i primi mattoncini per la pensione integrativa. Assolutamente sì, e infatti in questo è molto importante distinguere diciamo appunto la situazione di un soggetto che ha aderito sulla base di una adesione chiamata collettiva, cioè sulla base di un contratto collettivo rispetto a un'adesione individuale, e mettere in evidenza che sulle emissioni contributive c'è anche una garanzia, che è quella del fondo di garanzia sostanzialmente, che è nato per il TFR e si estende anche alle forme di previdenza complementare nell'ipotesi di insolvenza sostanzialmente del datore. Il problema di fondo però è ovviamente la diciamo, conoscenza della situazione di omissione, e da questo punto di vista è molto importante che il lavoratore sappia che sostanzialmente lui dovrebbe avere interloquire bene anche col fondo dove è scritto, nel chiedere anche periodicamente informazioni, perché come diceva poc'anzi Agazzi, c'è un obbligo anche della forma di previdenza complementare, certo, di dare in itinere delle informazioni che vanno al di là del mero documento che si riceve ogni anno, ma che vanno anche dalla possibilità di avere una posizione previdenziale online da consultare in itinere. C'è anche un'altra cosa da dire, che c'è una possibilità che la normativa dà e che i fondi contrattuali, sempre Cometa, utilizza, ma non tutti nel loro regolamento hanno messo, così come non tutti i fondi pensione aperti che raccolgono collettivamente hanno messo, e cioè che il fondo può darsi delle regole sulle modalità attraverso cui il datore di lavoro inadempiente è tenuto a reintegrare le somme non versate e anche sostanzialmente il modo in cui deve risarcire l'eventuale ritardo. Quindi, ad esempio, quando si aderisce a qualcosa che ha una valenza collettiva, bisognerebbe sapere e interrogarsi: abbiamo o no messo in quello che sottoscriviamo una regola di questo tipo che ci tutela molto? Allora, noi ci dobbiamo fermare adesso perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Professor Varlà, qual è, stava collegato con noi telefonicamente con un viva voce per caso? Perché sto facendo anche un monitoraggio tecnico per capire come mai non riesco a... Ecco, era solamente una domanda. La ringrazio, sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Eccoci ritrovati in diretta dal Salone del Risparmio. Volevo anche leggere qualcuno dei messaggi che ci stanno arrivando alle 349-238-6666 sul tema appunto della previdenza complementare, il tema che stiamo affrontando questa mattina. Alcuni ascoltatori ci raccontano, avendo un po' di difficoltà, ho chiesto la sospensione del versamento del TFR verso il fondo di previdenza complementare, mi hanno detto che non è possibile nessuna sospensione, ecco il motivo per cui molti non aderiscono, ad esempio. E poi il tema della tassazione, che non è molto compresa fra i lavoratori. Un altro ascoltatore dice: sì, figuratevi, perché parlate di questo argomento, non sappiamo nemmeno cosa faremo il prossimo mese, figuriamoci tra 30 anni. Molto preoccupata per le mie figlie, con lavori saltuari ho letto una pensione per te da voi consigliato, no, non credo che noi abbiamo proprio consigliato, ma a chi rivolgermi per effettuare una delle scelte che vorrei valutare? E questa è Anna che ci scrive. Professor Vallacqua, oltre a leggere i libri, magari anche quelli che scrive lei e tanti altri esperti di questo settore, come fa una persona con serenità a mettersi a chiacchierare con un consulente finanziario e capire quale potrebbe essere il prodotto, non di investimento, il prodotto pensionistico integrativo che fa al caso proprio, a prescindere dal fatto che, come dire, l'idea più diffusa, che è quella che si cerca di divulgare di più, è che se si ha un fondo di categoria è sempre meglio scegliere quello appunto della propria categoria, Espero per la scuola, Cometa per i metalmeccanici, Fonchim per i chimici e quant'altro, per tutta una serie di aspetti. In alternativa? Bah, guardi, io partirei dall'ultima delle osservazioni che avete fatto, cioè dalla scetticità del lavoratore che diceva: non so quello che farò domani o chissà il futuro. E da questo punto di vista mi preme mettere in evidenza che forse eccedere con gli allungamenti dell'età pensionabile ha un riflesso anche sulla previdenza complementare irrimediabilmente, perché se è davvero così là il momento in cui percepirò la prestazione pensionistica, e se si continua così si potrebbe indurre proprio nella considerazione, ma chissà se ci arriverò e come ci arriverò. Ma ci ho detto che è una facile battuta questa. Cosa chiedere? Bisogna sapere innanzitutto che c'è una normativa specifica, soprattutto per chi non aderisce a un fondo contrattuale, ma a un fondo aperto o un piano individuale di previdenza assicurativa, che obbliga chi colloca il prodotto a fare alcune cose molto semplici. Innanzitutto c'è l'obbligo sostanzialmente di spiegare, perché lo dice l'autorità di vigilanza, in maniera semplice quali siano i costi, dove cosa posso investire e quanto posso investire. E soprattutto un'informazione fondamentale che occorrerebbe dare è questa, cioè dire al soggetto: guarda che se tu hai la possibilità di aderire a una forma di previdenza complementare collettiva, potresti perdere il diritto al contributo del datore di lavoro se non aderisci alla tua forma collettiva. Ciò detto, è molto importante che però la cosa che venga fatta presente è valutare se chi ho di fronte ha o non ha la volontà di sottoscrivere una forma di previdenza complementare. Banalizzo: se io devo far sottoscrivere un fondo pensione, non posso mettere sullo stesso tavolo il fondo comune di investimento, il fondo pensione, il deposito vincolato, il conto corrente, perché sono delle cose molto diverse. Cioè, la prima cosa che l'operatore finanziario dovrebbe fare quando colloca una forma di previdenza complementare è appurare se il soggetto, quindi da questo punto di vista scavare attraverso quello che la normativa prevede senza essere troppo complicati, che il soggetto che ha di fronte alla volontà di un fine previdenziale, altrimenti si rischia di fare quello che succede. A me capita molto spesso, quando chiedo di fare un'indagine empirica sugli iscritti a un fondo pensione, che molti soggetti pensano di aver sottoscritto un fondo pensione, quindi una forma di previdenza complementare, le parole qui hanno il loro rilievo e significato, poi ne parlerò fra un tempo con riferimento alla norma sulla riforma Fornero, e invece non hanno un fondo pensione, ma una tradizionale polizza assicurativa, che non risente di tutele di quella normativa anche sugli investimenti, di quelle regole di trasparenza previste invece per la previdenza complementare. Non hanno degli obblighi, diciamo, normativi, ma almeno speriamo che ce li abbiano etici, deontologici, di informare al meglio. Questo noi speriamo sempre di vivere nel mondo migliore possibile. Professor Vallacqua, qualche volta abbiamo scoperto che invece non viviamo affatto in un mondo come questo. Volevo sentire rapidamente Alessandro da Bergamo. Alessandro, in due nanosecondi deve farci la sua domanda. Grazie. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Rapidissimo, vada la domanda. Sì. Io ho stipulato una polizza assicurativa per una pensione integrativa nel lontano 92. Ora l'assicurazione mi consiglia, quando scaderà l'anno prossimo, di ritirare tutto l'ammontare invece di usufruire della rendita vitalizia. Vi risultano a voi queste cose qua, praticamente? Alessandro, sì. A lei che cosa serve? Avere tutto il gruzzolo o integrare magari il reddito mensile che ha? Magari questa è una scelta, no, che può fare lei? Sì, a me non mi interessa avere il gruzzolo, però mi hanno detto che la rendita vitalizia sarebbe talmente bassa che non ne varrebbe quasi neanche la pena. Alessandro, la ringrazio, evidentemente lei è molto giovane, deve essere spalmata su un bel po' di anni. Professor Vallacqua, lascio concludere lei, ho abbandonato Maurizio Agazzi, mi perdonerà, lo recupero in un'altra circostanza. In 10 secondi una risposta a questa domanda? In 10 secondi sicuramente, se la rendita è molto bassa, la risposta viene da sé. Sicuramente, essendo un prodotto sottoscritto nel 92, ho i miei dubbi che sia una forma di previdenza complementare. Certamente, infatti. Benissimo, allora grazie ai nostri ascoltatori, a Maurizio Agazzi, a Francesco Vallacqua. Noi abbiamo parlato di previdenza complementare, ma stiamo continuando a spiegarvi il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni in collaborazione con l'INPS. Oggi siamo giunti alla terza pillola della settimana e il tema che stiamo affrontando questa settimana sono le novità che riguardano le donne. Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma in collaborazione con l'INPS. Vale anche per le donne l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita? Sì, vale per tutti. La riforma Monti-Fornero stabilisce direttamente sia l'età pensionabile, sia le tappe del processo di equiparazione, che porterà anche le donne del settore privato e le lavoratrici autonome alla soglia minima dei 66 anni nel 2018. Ma, a parte i limiti definiti direttamente dalla legge, è previsto che l'età pensionabile sia adeguata all'evoluzione della cosiddetta aspettativa di vita calcolata dall'Istat. A mano che crescerà la speranza di vita, e dunque si vivrà più a lungo, crescerà anche e parallelamente l'età della pensione. È già ipotizzabile, per esempio, che l'età pensionabile nel 2018 sarà non di 66 anni, come è determinato fin d'ora dalla legge, ma di 66 anni e 7 mesi, proprio per effetto dell'ormai sicuro e prevedibile allungamento della speranza di vita delle persone. E questo riguarderà anche le donne. E allora, dal Salone del Risparmio di Milano abbiamo terminato la puntata di Salvadanaio, nonostante tutti gli intoppi tecnici, caro Pietro Lacorte, Davide Cioce, Elena Rigios. Domani ritorniamo in diretta da qua, sperando che vada tutto per il meglio. Ringrazio molto anche Maurizio Agazzi e Francesco Vallacqua per essere stati collegati telefonicamente con noi. Con Salvadanaio dunque ci sentiamo domani, noi invece siamo di nuovo insieme anche a Focus Economia, ahimè per voi. Buona giornata a tutti.